godi questo sole, tuo transiente campo di girasoli, brezza di vento giocosa, ma di rami e fiori, ora son gelosa, l'attimo di vita, con l'immantinente, godi questo sole, tutto è transiente, fiori sbocciati siete stati. Transito.